Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti da Davide Paolini. Ebbene, oggi parleremo di un argomento, se volete, molto curioso. Perché parleremo di pranzo di nozze o di bacchetti di nozze? Perché molte persone mi raccontano veramente di cose bizzarre che avvengono durante questi matrimoni, magari in posti molto particolari, oppure con dei menù davvero pantagruelici, o in qualche caso anche molto ma molto divertenti. Allora andremo un po' alla scoperta di questo mondo che tra l'altro è un mondo che fa un business non indifferente, ma anche mi porrei anche un problema, vorrei così capire anche dove finisce tutto questo cibo, quello che non viene consumato, perché credo che quando si parla di recupero, ecco, i matrimoni e i banchetti di nozze presentano veramente dei casi davvero interessanti per poter recuperare appunto cibo che altrimenti viene buttato. Bene, cominciamo a parlare di questo argomento. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Mi piacerebbe sentirmi raccontare qualche banchetto, qualche menù molto originale da voi, cari radioascoltatori, oppure magari anche il vostro pranzo di nozze. Però cominciamo a parlarne con il presidente dell'associazione Wedding Planners, che credo sia ormai un'associazione molto forte, che appunto raggruppa gli organizzatori di matrimoni, un mestiere probabilmente che fino a qualche tempo fa era impensabile. Buongiorno ad Angelo Garini. Buongiorno. Volevo chiederle, Garini, ma è veramente la vostra associazione ormai credo che sia abbastanza importante, che siano tanti gli aderenti? Sì, in realtà per precisione io sono il vicepresidente, mentre presidente è Stefania Rigoni. L'associazione è nata circa 3 anni fa e devo dire che sta facendo un lavoro molto serio di qualificazione della professione del wedding planner, in quanto oggi non esiste nessun tipo di percorso formativo riconosciuto, quindi chiunque può improvvisarsi in questa professione, mentre l'associazione fa proprio un'opera di formazione seria e cerca di raggruppare appunto sotto l'associazione tutti quelli che vogliono praticare questo lavoro. Quindi diciamo che è stata una nuova professione che ha aperto anche dei posti di lavoro, immagino. Direi di sì, sicuramente è una professione in crescita, è in crescita l'offerta, è in crescita anche la domanda, perché sempre più persone decidono di rivolgersi a un professionista per un affiancamento appunto professionale per la progettazione del loro evento. Senti, voi avete dei dati, immagino, sui matrimoni, siamo in crescita o siamo in calo? Diciamo che i matrimoni sono leggermente in calo, però ripeto, è in aumento sicuramente il numero di persone che decide di organizzare il matrimonio in un certo modo rivolgendosi ad un professionista, quindi sicuramente è una professione in crescita questa. Ecco, quanto incide il pranzo di nozze, diciamo facendo 100 il costo complessivo di un matrimonio? Voi sicuramente avrete queste medie. Ma diciamo che il costo per un pranzo organizzato da un catering di buon livello oscilla tra un minimo di 80 euro e un massimo di 150 euro, quindi mediamente il 50% della spesa dedicata al matrimonio è quella che viene appunto dedicata al catering. Quindi lei ha parlato di catering, quindi sempre di più è il catering che è il fornitore del pranzo. Voi vi rivolgete quando organizzate i matrimoni non tanto a un ristorante ma a un catering? Direi di sì, perché la richiesta è sempre più quella del matrimonio particolare esclusivo, quindi la moda è per la ricerca di una location particolare dove appunto si fornisce poi un servizio di questo tipo. In realtà, per essere precisi anche in questo caso, di banqueting, in quanto banqueting è preparazione del cibo sul posto, mentre catering è trasferimento del cibo fatto altrove per essere consumato in un altro posto, appunto. Quindi prevalentemente sì. Poi esistono delle situazioni in cui magari ci sono strutture già attrezzate, però il matrimonio che vuole essere evento particolare e unico si avvale poi del servizio del banqueting, quasi sempre. Ecco, sentiamo un radioascoltatore, Giuseppe da Piacenza. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, io ricordo che quando ero più giovane si andava al matrimonio dei miei cugini, ma lo facevano anche gli altri, e il giorno dopo si ritornava a mangiare quello che era rimasto. Quindi vi portavate via praticamente il cestino, insomma, in poche parole? No, non si portava via il cestino, diciamo oggi andiamo al matrimonio, sì. Oggi a mezzogiorno si andava al pranzo del matrimonio. Domani, sempre a mezzogiorno, si ritornava a mangiare quello che era rimasto. Ho capito. Ma lei quanti cugini ha? Perché ha detto il matrimonio dei miei cugini. Lei ne ha tanti, quindi. Beh, ne ho parecchi, diciamo. No, vabbè. Però visto che voi parlavate certo, di certo. quello che era rimasto bene. Dalla mia parte su in collina si, con mia Piacenza si recupera a ritornare il giorno dopo bene. Ma non solo da noi, anche da altre parti era così insomma. Bene, sentiamo Diego da Udine, un altro radioascoltatore. Buongiorno Diego. Buongiorno, buongiorno. Mi dica. Io ho organizzato con mia moglie il mio matrimonio in un birrificio, cioè in una fabbrica di birra. Sì. Di un amico a Udine, c'è uno splendido birrificio che si chiama Bire, per fare birra artigianale. Siccome ci siamo sposati dalla decisione, ci siamo sposati il mese dopo, e quello che non volevamo era il solito banchetto pantagruelico e pieno di gente, diciamo così, attorno a un tavolo per delle ore, questo nostro amico che produce questa birra ci ha proposto venite da me e faccio io. E abbiamo mangiato tutto a base di residui di lavorazione della birra, mentre il maestro birraio stava tirando fuori l'ultima cotta, per cui al di là del matrimonio il maestro birraio ha spiegato a tutti gli ospiti come si produce la birra, cosa accade nella produzione, da dove deriva, e quindi si sono fatti una bellissima cultura di birra, per cui il nostro matrimonio sarà ricordato per... Grazie Diego, io magari alla fine darò un premio al matrimonio più originale, grazie. Voglio leggere un sms tra i tanti già arrivati. In Puglia, dove si supera la follia, i pranzi partono da 100 e arrivano tranquillamente a 250. Mi sono sempre chiesta che fine fanno gli avanzi. I dipendenti confidano che vengono buttati, un vero schifo, perché i menù sono talmente ricchi che avanza di tutto. Bene, io prego qualcuno di intervenire, magari di dire che le cose non stanno esattamente così, perché sarebbe veramente uno spreco inutile. Ho detto che avevamo tra noi Luca delle Donne, che rappresenta i Piaceri d'Italia, una società di catering. Allora vorrei chiedere proprio a Luca delle Donne se tra i matrimoni organizzati, e penso siano tanti, qual è il più originale, cioè il pranzo più originale che avete organizzato, avete realizzato o vi è stato chiesto? Buongiorno Luca. Buongiorno Paolini, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Effettivamente da qualche anno a questa parte, per stare al passo bisogna veramente sbizzarrirsi, e noi cerchiamo, a noi piace proprio cercare di stimolare i nostri clienti quando si incomincia a parlare di matrimoni. Uno dei più strani, quello che a noi è piaciuto tantissimo, è l'abbiamo chiamato il matrimonio al contrario. Quindi si inizia proprio, si fa tutta la cerimonia, tutto l'iter del matrimonio al contrario, iniziando dal mattino con una grandiosa colazione in una bella location o villa sul lago, o comunque una location, quella bella che sia, una colazione con tutti i quotidiani, le riviste, un vero momento di relax. Dopo qualche ora si incomincia con un aperitivo, ci si siede a tavola, pranzo, dolce, si va poi a celebrare la cerimonia, e alla fine della cerimonia gli sposi, quando se ne vanno con la macchina, salutano, ma salutano sul serio, perché proprio se ne vanno finalmente liberi da ogni commezione. Questo è piaciuto molto, l'abbiamo fatto già 3 volte ed è una cosa veramente stuzzichevole. Senta Luca, volevo chiederle, ma gli avanzi, ecco questo è il punto, gli avanzi, perché credo che ce ne siano tanti nei matrimoni, perché si fa sempre tutto in abbondanza, dove finiscono? Vengono recuperati, vengono buttati, o siete talmente bravi da organizzare in maniera tale da non sprecare nulla? Guardi, noi abbiamo una particolarità, noi cerchiamo di, siamo un catering, meglio dire banqueting, perché facciamo poi le cose sul luogo, che ha fatto della ricerca della materia prima di qualità la propria filosofia. Lavorando molto con la materia prima, non me ne vogliono gli chef, noi cerchiamo di lavorare sempre meno col cucinato e tanto con materia prima. Materia prima che viene consumata per quella che si mangia, e il resto assolutamente non si butta, perché è materia prima che poi conservata nel giusto modo, noi ovviamente abbiamo modo di riproporla poi sempre nei giorni. Ovviamente la parte cucinata, purtroppo, che dire, un minimo di scarto c'è, ma assicuro che lavorando in questo modo con materia prima di qualità poco manipolata si riesce veramente a tenere a bada lo scarto, che è una cosa effettivamente importante in un pranzo. Grazie, rimanga con noi, sentiamo Aniello dalla provincia di Salerno. Buongiorno Aniello, un radioascoltatore. Buongiorno, buongiorno. Io volevo spiegare brevemente l'esperienza, diciamo, che c'è nella nostra provincia di organizzazione del matrimonio. perché da noi si entra proprio in un agone, diciamo, nella fase prematrimoniale, quindi si fa la sfida chi organizza meglio il banchetto, e siccome qui da noi il cibo è una cosa rituale, è molto importante organizzarlo bene. Il matrimonio, diciamo, più originale è stato quello in cui noi prediligiamo il banqueting rispetto al catering, ed è stato quello in cui si uccidono degli animali, tipo dei vitelli, addirittura. E si arrostisce direttamente la carne in loco e si fanno le mozzarelle direttamente, no? Da noi c'è la mozzarella di Mortella, no? Sì. E quindi si chiamano tipo 10 persone che dalla toma preparano direttamente le mozzarelle che poi si mangiano. Quindi dal vivo, cioè tutto dal vivo. C'è una filiera, bene. C'è una filiera, diciamo, produttiva. Bene, grazie Aniello dalla provincia di Salerno. Ora sentiamo Ivana dalla provincia di Latina. Buongiorno Ivana. Sì, buongiorno. Senta, io volevo raccontare di una mia esperienza in Germania, un matrimonio di una mia carissima amica. E solo questa cosa volevo dire, al di là del fatto, va bene, magari è un po' diverso l'andamento del matrimonio, per quanto che loro usano molto fare questi buffet al tavolo, e di caldo c'era pochissimo, e tutto quello che a fine pranzo è avanzato, diciamo, loro hanno portato delle buste, quelle buste, diciamo, dell'immondizia, con tanti contenitori della Tupperware, e gli sposi, la madre e altri parenti, hanno portato via tutto, e con quella roba che è avanzata, noi abbiamo mangiato nei giorni successivi, sono degli amici che non erano intervenuti al matrimonio, ed abbiamo mangiato fuori all'aperto con delle panche. È stata una cosa carinissima. Bene, i tedeschi sono sempre molto, molto organizzati. Sì, però a me è sembrato un po' strano, certo, perché noi siamo abituati a essere, certo, tutti comuni. Però in effetti quei tempi di oggi, in cui c'è la crisi, forse hanno fatto bene loro. Grazie Ivana, grazie Ivana di questa testimonianza. Ora andiamo in Puglia, andiamo da un organizzatore di eventi in Puglia, quindi sentiamo, diciamo, una delle regioni, come c'è stato anche descritto prima, credo in maniera esagerata, le più, se vogliamo, le più ricche dal punto di vista dei matrimoni. Sentiamo Massimo Maglio della Maglio Eventi. Buongiorno Maglio. Buongiorno a lei. Allora, la Puglia è ancora così ricca di matrimoni e di grandi banchetti? Beh, diciamo sì, ancora il matrimonio tiene bene, per fortuna, e si dà anche molta importanza a questo evento. Ecco, quello più originale che lei ha organizzato, pranzo di nozze, ce n'è stato uno in particolare, di una richiesta magari molto strana? Beh, guardi, uno magari originale è stato quello che abbiamo organizzato in un palazzo in costruzione, in un cantiere praticamente. Aveva il tema lavoro in corso, quindi è stato veramente divertente. Bene, mi sembra veramente originale, questo concorrerà sicuramente al premio, ma stanno arrivando sms, diciamo, di tutti i generi. Chi parla addirittura di, non addirittura, parla di pranzo macrobiotico, perché è giusto se uno crede in un certo tipo di alimentazione, è giusto, chi in pranzo vegetariano. Chi parla di frecce tricolori, vabbè, ce ne sono tanti. Chi parla appunto del recupero, quasi tutti stanno parlando del recupero, e credo che questo sia un fatto molto, ma molto positivo. Volevo chiedere a Luca delle Donne se negli ultimi tempi c'è stato un rallentamento di richieste di matrimonio. Devo dire che anche da noi il matrimonio, come in Puglia, sta tenendo. Certo, bisogna sempre essere più attenti a tantissime tematiche, a fare proposte innovative e tanto tanto alla qualità. Quello che abbiamo notato è che per tenere la gente negli ultimi anni è diventata esigente, e sono anche diventati tutti forse più intenditori, si è sviluppata una cultura enogastronomica che sta sempre più crescendo, e quindi noi operatori dobbiamo essere sempre più attenti a proporre davvero qualità. Noi addirittura, non so, proponiamo, per esempio, mi viene in mente, pensando a quello che diceva prima degli animali che vengono uccisi, noi proponiamo il taglio del tonno anziché del taglio della torta. Portiamo un tonno intero rigorosamente di favignana, lo tagliamo al posto della torta, e anche in questo caso, dopo averlo consumato, non ci sono problemi di scarti, perché comunque poi quello che avanza viene riciclato con le tecniche dovute nei giorni a seguire. Sentiamo Paride, un radioascoltatore della provincia di Sondrio. Buongiorno Paride. Buongiorno. Mi dica. Io volevo portare, diciamo, quel matrimonio cui sono andato io, in Valmarecchia, un paesino della Valmarecchia, sopra Rimini, classico paesino, diciamo, sulle cucuzzolo delle colline, così, dove abitava il padre della sposa e circa altre 30 persone. queste 30 persone si sono messe tutte a disposizione del matrimonio, servendo i commensali, e inoltre posso dire... È andato, il nostro paride è sparito. Torniamo a Massimo Maglio. Volevo chiederle se il problema del recupero, cioè di quello che viene avanzato, è un grosso problema, se ci sono delle tecniche appunto per recuperare il tutto, oppure se, come viene detto, in molti casi purtroppo bisogna buttare. Guardi, il cibo cotto non viene assolutamente recuperato. Sicuramente si fa molta attenzione nella preparazione, perché poi lei sa benissimo, sprecare il cibo non sta bene. Però non c'è la possibilità di poter recuperare il cibo cotto. Molto spesso le coppie, gli sposi, quello che resta lo danno in beneficenza o addirittura viene buttato. Però si cerca di sprecare quanto meno è possibile. Ecco, volevo chiedere a Luca delle Donne se appunto lui prima parlava di materie prime, quindi parlava di materia prima, di ingredienti e non di cucinato, se questa può essere una soluzione appunto per non sprecare. Noi sicuramente abbiamo notato che con il patrimonio, con la grande ricchezza che per fortuna l'Italia offre da ogni regione, da ogni valle, di materie prime, di ingredienti, dalla pittina ai formaggi, ai salumi, alle cose più disparate, noi abbiamo notato che si riesce veramente ad allestire un ricco menù limitando molto il cucinato. Come ha detto adesso Ettore Maglio, il cucinato purtroppo, seppur attentamente dosato ed equilibrato per le necessità, però il cucinato, ovviamente, se poi si ha qualcuno a cui darlo in beneficenza, ben venga, però il cucinato non si può recuperare, mentre usando i grandi tesori che la gastronomia italiana offre e mette a disposizione, noi riusciamo a fare veramente dei menù dove quasi riusciamo a limitare a un solo piatto cucinato. Bene. E questo è importante, perché limita praticamente azzera lo spreco. Grazie a Luca delle Donne di Piacere d'Italia. Sentiamo Anna Maria dalla provincia di Udine, una radioascoltatrice. Buongiorno. Buongiorno, io raccontavo l'esperienza dei miei ragazzi che avevano pochi soldi a disposizione, hanno avuto la fortuna di un amico di Grado che ha messo a disposizione un gazebo nel residence dove vive, hanno cucinato loro e restate insalate fredde, poi hanno fatto una grigliata, hanno fatto delle pizze, è stato un pranzo allegrissimo, molto divertente, finito con gli sposi e gli invitati in piscina. E se la sono cavati con veramente una cifra irrisoria. Quello che è avanzato, ce lo siamo equamente divisi, è stato un pranzo di nozze molto insolito, ma anche divertente. Bene, complimenti ai suoi figli. E allora grazie a Massimo Maglio. Sentiamo Paride dalla provincia di Sondrio, un radioascoltatore che ci parlava prima. Buongiorno Paride. Buongiorno. Continuo il discorso di prima. Sì. Stavamo dicendo, l'intero paesino a disposizione degli sposi, e sotto il tendone in cui si mangiava, il tendone era diviso in varie isole, dove c'era l'isola del pane, del dolce, del salato, del primo e del secondo, e ogni invitato poteva partire a mangiare da dove voleva, poteva partire dal dolce oppure dall'antipasto, dal primo. Bene, quindi ecco, tutto il paese partecipava a questo banchetto. Grazie Paride della provincia di Sondrio. Ora andiamo a parlare con uno chef molto famoso, il Ciccio Sultano del Duomo di Ragusa, il quale buongiorno. Buongiorno Ciccio, è stato protagonista e diciamo è stato l'autore di un pranzo molto famoso della principessa del Qatar. E allora Ciccio, ma il pranzo della principessa del Qatar per quante persone era? Il pranzo era per 400 persone, ovviamente abbiamo preparato per 450. In realtà ne sono venuti 380, comunque è stata una vera sfida, perché erano 15 piatti in 11 uscite e avevano montato per l'occasione una tenda che ingoiava il Palazzo Reale, lasciando intendere che entrando dal Palazzo Reale è come se entrasse in una grande sala e non si dava l'impressione che si entrasse invece in una struttura a sé. Una struttura fatta veramente bene, decorata con 20.000 orchidee che scendevano dal cielo e si specchiavano su dei tavoli di vetro con posate in titanio, un lavoro fatto veramente bene da gente molto professionista, e io ero uno degli anelli importanti insieme con gli altri, quello di preparare il pranzo, dunque 15 piatti, 11 uscite, è stato veramente una vera guerra, perché eravamo troppo fuori casa, e portare tutto questo cibo appresso a valigia, perché ci siamo portati 600 kg di merce, tra cui 60 agnelli per poter poi andare a ricavare solo le costolette e qualche pezzettino di cosciotto. Ecco, tu hai potuto fare la tua cucina o ti sei dovuto adeguare delle richieste? No, mi sono adeguato innanzitutto perché non mangiano maiale, non mangiano e non bevono alcolici. Ovviamente noi abbiamo studiato minuziosamente 11 bevande con estrazione sia a freddo che a caldo, un po' come si fa con i profumi, dove lì facevamo queste bevande che si accoppiavano con dei granite, sorbetti, gelati a tutte le bevande. E lì diciamo inizia un po' tutto il pranzo con l'aperitivo sino a inoltrarci, scusa, la cena, sino a inoltrarci in quello che è poi il vivo del matrimonio. Ecco, visto che non si bevono alcolici, il brindisi è stato fatto con una bevanda non alcolica, quindi? Il brindisi è stato fatto con delle tisane di erbe citriche, con un chinotto e acqua di sedano, con tè verde e granita di limone, un po' come quello che noi facciamo qui in Sicilia. Poi abbiamo fatto altri bicchieri sempre molto sofisticati, dove si sono divertiti tantissimo. Devo dire che è stata una vera soddisfazione. Sì. Eravamo in 35 cuochi in una tenda di 250 metri e più di 2000 metri invece era dove avveniva l'evento. Tutto in prefabbricato, termocondizionato, un lavoro veramente fatto serio nei minimi particolari. Senti Ciccio, era il tuo primo matrimonio? Io ho fatto più di 2000 matrimoni. Ah, okay. Questo non lo sapevo. Diciamo che i numeri grandi li abbiamo sempre fatti, però in questa occasione abbiamo studiato qualcosa molto, ma molto di... Perché diciamo che oggi sono... allora diciamo ero un operaio che lavorava sotto altri e facevo una cucina più semplice. Non perché, voglio dire, se me lo chiedono, perché no. Però oggi, siccome ci hanno chiesto la cucina che facciamo al ristorante Duomo, però moltiplicata per più persone. Dunque c'è stato uno studio con un'attrezzatura molto tecnica, molto sofisticata, che ci dà la possibilità di poter fare più piatti per più persone. Però ovviamente poi stavo dicendo, erano tutte donne. Dunque 380 tra regine e principesse di tutto il mondo che si andavano a sposare. Che andavano in questo sponsorizio, e allora lì è veramente una grossa responsabilità. Già solo a parlarne mi viene un po' da i brividi. Bene, grazie Ciccio, grazie di questo a tutti. Grazie di questa testimonianza. Sentiamo Armando da Verona. Buongiorno Armando, radioascoltatore. Buongiorno a lei. Senta, io volevo dirle una cosa. Qui nel nord in genere i pranzi di matrimonio sono molto meno importanti o sono molto meno sfarzosi rispetto al sud. Però, nonostante questo, si arriva a spendere delle cifre veramente esagerate secondo il mio punto di vista, perché per fare un pranzo di matrimonio si va a spendere dai 70, 80, 100, 120 euro per persona. E questo non riesco a spiegarmi il perché, dal momento che il pranzo di matrimonio viene organizzato prima, prenotato prima, con le persone che si sa già in partenza quanti sono, preparato tutto prima, se invece le stesse cose si mangiano o si vanno a mangiare in un ristorante alla carta, si spende la metà. Bene, ecco. Grazie, guardi, abbiamo con noi un grande esperto, abbiamo Piero Camussone del Visconte, che è un grande organizzatore di matrimoni, di pranzi di matrimonio. Chiediamo a lui se ha sentito il suo quesito. Buongiorno Camussone. Buongiorno Davide, buongiorno. Hai sentito questa? Ho sentito, mi sembra una provocazione interessante, anche stuzzicante. Colgo subito l'occasione per dire una cosa, che il confronto tra un ristorante e un evento organizzato in qualsiasi location conta il fatto che esiste anzitutto un aspetto logistico, comunque ci si deve spostare, muovere delle merci, delle attrezzature e quant'altro. E poi c'è anche da dire che normalmente un evento nuziale rispetto per esempio ad un pranzo comporta degli allestimenti, ma proprio in termini di mise en place piuttosto che di coreografie per quanto riguarda il buffet, di organizzazione di spazi, quindi con arredi e quant'altro, che in un ristorante normalmente non ci sono. Per cui quella differenza che potrebbe essere ipotizzabile in un 30, 40, 50 euro rispetto ad un pranzo di un ristorante riporta un pochettino l'equilibrio dei costi verso quel range che condivido di 80, 100, 110 euro per persona. Bene, sentiamo Gigino dalla provincia di Napoli, rimani con noi Camussone. Gigino, prego. Pronto, buongiorno, signor Gassonauta. Sì. Salve, complimenti per la sua trasmissione, la sento sempre. Allora, io voglio dire, io sono un venditore di panini ad Ercolano. Sì. E quindi ho il camion con la porchetta, gli hamburger, le salsicce, queste cose qua, il tutto. faccio un 30-40 contorni al momento, e quindi mi invitarono una sera a fare un matrimonio in campagna dalle mie parti, Ercolano Superiore. Pronto? Sì, sì, no, stiamo ascoltando con tanta attenzione. E quindi con gli invitati erano 120, e quindi loro fecero questa cosa, mi invitarono nella loro proprietà, che era campagna all'aperto, di sera. Sì. E ho fatto questo matrimonio per questi due ragazzi che conoscevo, perché diciamo non potevano spendere troppo. E quindi io sono andato là, ho preparato 120-130 panini, tra bibite, queste cose qua, vicino al camion. E poi voglio dire un'altra cosa, io avevo detto al padre dei ragazzi di mettere dei numeri come se c'erano persone in fila. Loro hanno detto no, sì. Voleva fare, insomma, voleva fare la fila con i numeri per prendere i panini. La ringrazio, Gigino, lei è molto simpatico. Bene, credo che magari, chissà, molti altri possono pensare appunto al camion con i panini. Anche questo è un matrimonio originale. Torno a Piero Camussone. Piero, volevo chiederti, ma il matrimonio più originale, la richiesta più originale che hai avuto del pranzo così più creativo? Ma a noi capita spesso di cercare di incontrare un po' il gusto dei nostri ospiti, e a volte rimaniamo anche sorpresi da richieste oggettivamente bizzarre, come quella di una volta in cui gli ospiti hanno pensato di declinare intorno ad un frutto, la mela, tutto il loro matrimonio, ma proprio come, tra virgolette, in modo simpatico, ironico, simbolo del peccato, per cui la mela è diventata un po' il fil rouge dell'evento, soprattutto da un punto di vista culinario e gastronomico. Addirittura abbiamo dovuto inventarci di andare a cercare una sorta di cocottina di porcellana che ricreasse le sembianze di una mela rossa, all'interno della quale poi inserire una pietanza che oltretutto prevedeva la mela, in questo caso era un risotto con mele renette e castelmagno. Quindi una cosa un po' curiosa, e tutto l'evento aveva quella come dominante, sia nelle scenografie, quindi erano non una scenografia floreale, ma di frutta in questo caso, sia nelle pietanze, una cosa veramente divertente. Beh, vedo che arrivano sms e mi parlano di matrimonio con cibi afrodisiaci, ma credo che proprio per quel giorno non ce ne sia bisogno. Quindi, almeno quel giorno. Sentiamo Luisa da Brescia, buongiorno Luisa. Ciao, allora, premetto che queste nozze gli sposi sono arrivati con l'elicottero. Ma quale nozze? Il ristorante, le nozze di un mio cugino. Ah, ecco, bene. Il ristorante aveva la pista e loro sono arrivati alle falde del Vesuvio con l'elicottero. Niente, per quanto riguarda gli avanzi, a Napoli almeno si usa così, perché è successo a mia mamma che avanzavano tante di quelle bistecche, che è un peccato, è tutto pagato, e dice però mi vergogno dire le portiamo a casa. E così ci siamo inventate che avevamo il cane, se potevamo portarle e le davamo al cane, non era vero. Ma qualche quintale quindi di bistecche, insomma. Ma tutti fanno così. Va bene. Hanno tutti il cane, anche se non ce l'hanno. Grazie Luisa, sentiamo Silvia da Bergamo. Buongiorno Silvia. Buongiorno, ho sentito qualcuno che si lamentava dei prezzi dei pranzi di matrimonio. Io ho avuto un'esperienza completamente opposta. Mi sono sposata 3 anni fa e sono stata da Gualtiero Marchesi all'Alberetta. Devo dire, a parte, vabbè, non ho bisogno di dire come ho mangiato, perché vabbè, potete immaginarvelo, ma l'organizzazione delle sale, a quella abbiamo pensato noi, abbiamo messo dei fiori, eccetera, c'è stata estrema disponibilità da parte di tutti. E il prezzo del pranzo era, vi posso assicurare, assolutamente in linea con quello che chiunque andando all'albergo mangiare avrebbe pagato. Bene. E io non sono amica di Alberto Marchesi, non mi conosceva prima, siamo andati, abbiamo parlato e non lo so, forse in altri posti succede diversamente, lì è andata così, non ho avuto nessun sovrapprezzo e c'è stato veramente un pranzo all'altezza del luogo. Sia come vabbè, servizio, come pietanze, tutto quanto, e vabbè, di Gualtiero Marchesi non parliamone perché vabbè. Vabbè, è stato... grazie a Silvia da Bergamo. Bene, ora ci colleghiamo con Montecatini con un altro catering molto noto, BK1. Buongiorno Simone Galigani. Buongiorno, buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli italiani, buongiorno anche auguri ai papà. Ah bene, oggi è la festa del papà, è vero, oggi non bisognerebbe festeggiare i matrimoni, ma la festa del papà. Bene, Galligani, il matrimonio più originale, diciamo il menù più originale che le è stato chiesto o la richiesta più bizzarra? Ma noi essendo a Montecatini Terme, nel cuore della Toscana, facciamo anche molti matrimoni da lontano, dal resto dell'Europa e dal mondo, quindi sicuramente quella che mi ricordo proprio così è una cosa che abbiamo fatto in realtà poi a Lucca per un matrimonio russo dove facevamo, come dici tu, quasi il gioco delle coppie, caviale, champagne perché erano la loro tradizione, lardo di colonnata e tartufo d'alba perché erano in Italia. E quindi queste cose bizzarre a noi ci vengono dagli stranieri e poi da tutte le invenzioni che mettiamo nel... rendere più particolare la cucina toscana piuttosto che fare un connubio appunto fra due cucine. Ma è vero che i russi scelgono le cose più care? Se gli presenti tre menù scelgono quello più caro? Quasi sempre, sì. Soprattutto sul vino, sugli ingredienti fondamentali, sull'esclusiva, veramente sì, è così. Un altro originale, un altro matrimonio originale che ti viene? Ma l'anno scorso abbiamo fatto in riva al mare il matrimonio del figlio di Maccioni, Marco, che si è sposato con Sabrina, e lui è finito a ballare in mezzo all'acqua con la sposa, il primo valzer, e abbiamo servito anche lì dai salumi di Mozzumano al grande fritto alla Via Regina, e in scenari particolari. Col catering adesso si riesce a fare tutto, si riesce anche a fare soprattutto qualità, che è la cosa che mi sta a cuore, portando delle cucine della tecnologia impensabile anche in riva al mare. Bene, grazie a Simone Galligani. Sentiamo ora Lino, un radioascoltatore dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno Lino. Buongiorno a voi. Mi dica. Io, diciamo così, sono stato invitato al mio matrimonio. Ecco, ah, bene. Cioè lei ha ricevuto l'invito dalla sposa? No, dagli amici, perché avevamo deciso di non fare nulla per tutta una serie di motivi che non sto a dire. Tra cui quello che non è così, diciamo, importante l'evento, la festa in sé, per cui diciamo avevamo deciso di andare soltanto con i testimoni in comune lì. Invece a metà settimana ci è arrivato un telegramma di invito al nostro matrimonio da parte di amici e colleghi. Questo è molto originale, questo potrebbe essere veramente il premio. Ma cosa avete mangiato? Cosa vi avevano preparato gli amici? Ma diciamo, siamo andati in mezzo proprio alla Brianza, nella zona di Montevecchia, dove c'è una cascina isolata, non si vedeva neanche niente cemento attorno, dove c'erano dei sardi che facevano cibo sardo, tra cui il maialino, cose di questo genere. È stato molto carino perché secondo me questo spontaneo, certo, poi relativizza un po' tutto quello che si sta discutendo nella vostra trasmissione, certo, del pranzo in sé, no, come cibo vero e proprio, alla che poi relativizza il cibo, relativizza il posto, relativizza un po' di cose. Grazie a Lino. Ora andiamo da un grandissimo pasticcere a Rivalta di Torino, da Marco Vacchieri. Buongiorno Marco, volevo chiederti qual è stata la torta più grande, dice, enorme, che tu hai realizzato per un matrimonio? Ma diciamo che anche di recente combinazione erano due sorelle, ho fatto una torta, una meringata alla fragola, fatta sullo stile americano, che era molto grande perché volevano le alzate all'americana. All'americana diciamo che significa le torte a gradini. Siccome la meringata non ha una struttura come le torte americane molto dure, che peraltro magari a volte non sono neanche eccezionali, per farla star su bisogna, c'è il trucchetto, bisogna fare un'alzata di polistirolo in cui poi viene nei gradini viene messa la meringata. E in effetti poi non è che sia tutta mangiabile, però l'effetto scenografico è molto forte, ecco. Poi normalmente sono torte che noi cerchiamo sempre di decorare in maniera molto, molto sobria, ma fine con o del cioccolato bianco o delle bignolette caramellate. Diversamente poi gli sposi normalmente poi fanno scendere dei fiori freschi e la cosa rimane molto fine. Diciamo però che adesso in periodo di crisi si tende meno all'ostentazione e magari si richiedono torte buone, semplici, ben fatte, e si va più sul gusto, ecco. Magari alla crostata. Giulio dalla provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno a lei, Gabriele. A me capita, ho una piccola pasticceria e sono conosciuto anche molto per la lavorazione del cioccolato e mi capita molto spesso di fornire dei piccoli banchetti di praline. Solo di praline? Si indirizzano invece della solita torta o la torta a farla in forma minore. Bene. Un bel tavolo di pralineria. Grazie Giulio della provincia di Treviso. Bene, abbiamo chiuso, magari a qualcuno è venuto fame perché vista anche l'ora. Allora io vi saluto, vi do appuntamento con la pillola alle 11.05 e alle 23.05. Ringrazio Peter in regia, in redazione Anita Panizza. Buona giornata a tutti, anzi buona settimana a tutti da Davide Paolini.